se partissi adesso, forse potrei. Voglio il vidi vostro, santi ed eroi, e ricominciare un altro cielo, tra le stelle mille. Portami con te, dove nasce il sole, via, via, via dal blu. E seguire l'alba, fiori nelle aiole, via, via, via nel blu. Se parassi adesso, forse direi rime e promesse di poeti e marinai, e cercare poi un altro mare, onde e scintille. Portami con te, dove nasce il sole, via, via, via dal blu. A sentire l'aria, vento tra le vele, via, via, via nel blu. Se partissi adesso, forse potrei togliermi di dosso carte e calamai e ricominciare.